Se inala coca sacra, santa mala, o la si inietta o la si spara, la si pippa o la si inala coca sacra, santa mala, o la si inietta o la si spara, o la si pippa o la si inala santa mala, profonda Colombia, visione 360 gradi di una profonda pozione d'amore. Evil Sun.